Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Abbiamo parlato spesso di musica, ovviamente, abbiamo raccontato storie di personaggi che hanno fatto parte della storia, che hanno creato generi, oppure che sono diventati simbolo di un atteggiamento o di una moda. Oggi parliamo di un musicista, se vi può interessare, uno dei miei preferiti. Ha passato tutta la sua carriera a sperimentare, ha esplorato tutti i generi musicali, è passato dal rock al jazz, dal country all'opera, alla musica classica, partendo però, e questa è un'altra analogia, dal punk, perché lui nasce all'interno del movimento punk, dal quale poi si distanzia per superiorità e curiosità. È un genio, ha saputo tradurre in note i differenti stati d'animo della sua vita, ha usato la musica come un codice per comunicare con tutti e ha usato un linguaggio universale ma raffinatissimo. Stiamo parlando di Elvis Costello. Bene, Dominic, potresti formulare di nuovo la tua domanda? Certo. Anna, quanto tempo intende restare qui in Inghilterra? Indefinitamente. Questa è la scena finale di Notting Hill, il famoso film Julia Roberts e Hugh Grant, film che termina sulle note del successo di Aznavour. Sheila interpreta proprio lui, Elvis Costello, che dà nuova linfa vitale a un brano già di per sé storico. Ma questo è solo uno dei tanti colpi d'ala che attraversano la vita di Declan Patrick McManus, nato a Londra da famiglia di origine irlandese, nato nell'agosto del 54. Il cognome della nonna materna, Costello, unito al nome di quello che lui considera il più grande, cioè Elvis Presley, trasformeranno il piccolo Declan in Elvis Costello. Nel 70 avviene una prima svolta delicata, perché i genitori si separano, lui torna a vivere a Liverpool con la madre e la madre gestisce un negozio di dischi. Con mia madre a Liverpool mi trovavo bene, ma quando invece sono tornato a Londra nel 1973 per inserirmi sempre di più nel mondo della musica, ho avuto l'occasione di vedere mio padre più frequentemente. Insomma, un padre musicista, una madre che possiede un negozio di dischi, l'adolescenza passata nel luogo dove è nata l'epopea dei Beatles, in qualche modo il destino può essere segnato. Se poi a questo si aggiunge un grande talento, il gioco è fatto. È impossibile per lui non sentire nascere una passione sfrenata per la musica in ogni sua forma. Liverpool è un punto di partenza, il punto d'arrivo ovviamente è Londra. Fin dagli inizi ho creduto in quello che desideravo più fare. A 19 anni ho lasciato la casa dei miei e sono andato a stare per conto mio. La molla per me è stata la musica. Volevo suonare e diventare un professionista. 1977 esplode il punk e ci sono in Inghilterra delle etichette discografiche più attive di altre, più ricettive. Una di queste è la mitica Stiff Record, e la Stiff Record mette sotto contratto Elvis Costello con il nome Elvis Costello and the Attractions, ed esce il primo album, si chiama Miami's True, contiene singoli già molto interessanti come Less Than Zero, come Elvis, e il risultato è buono, arriverà al numero 14 della classifica inglese. Elvis Costello ha un'altra particolarità, che ha un look piuttosto diverso rispetto ai punk, diciamo, più ortodossi, alla Sid Vicious, col capello sparato e con i giubbotti stracciati. No, lui ha una giacca elegante, ha un paio d'occhiali dalla montatura particolare, nera, grossa, stile Buddy Holly, ha una faccia pulita e quindi in qualche modo si colloca come anticonformista. E in più, anche se spinge sull'acceleratore con gli attractions che gli rimarranno vicini per praticamente tutta la carriera, quindi sa farlo il rock. Però lui è cresciuto ascoltando soprattutto gente come Charlie Parker, come Frank Sinatra, e quindi tra un look che lo fa sembrare più grande, più vecchio della sua età, e una musica così particolare, si differenzia. Diciamo che lui e Joe Jackson sono stati i due musicisti punk per i quali il jazz ha avuto più influenze. Eppure uno dei suoi migliori amici dell'epoca è Joe Strummer, il leader dei Clash, e quindi questo fa anche capire che sotto a degli abiti così particolari si cela uno spirito ribelle. Il vero punto di svolta nella vita è stato proprio seguire il mestiere di famiglia, decidere di fare il musicista itinerante, dopodiché tutto il resto è stato solo fortuna e duro lavoro. Elvis Costello magari non è punk nel modo di vestire, ma lo è negli atteggiamenti. Il suo gruppo si chiama The Attractions, l'abbiamo detto, e lui viene invitato nel 77 a partecipare a Saturday Night Live, il celebre programma americano del sabato sera, e gli autori gli hanno chiesto di suonare Less Than Zero. Lui vorrebbe farne un altro che si chiama Radio Radio, un pezzo di protesta, però gli Stati Uniti sono quello che sono, insomma, in televisione non vogliono che si affrontino argomenti che possono avere connotazioni delicate. Bene, il punk Elvis Costello, punk dentro soprattutto, quando parte la diretta, dopo aver preso accordi per suonare una canzone, suona l'altro. In qualche modo effettua uno dei primi blitz, o se preferite, colpi d'ala. Il falco e il gabbiano. E così Costello sfida la censura americana, suona il suo pezzo Radio Radio in diretta, col risultato di essere bandito dal programma e da qualsiasi altro show americano per un bel po' di tempo. Però le leggi del punk, che in qualche modo dettano legge nella comunicazione, ci insegnano che da un evento negativo può scaturire qualcosa di diverso. E intanto si parla di te. Grande pubblicità per Costello, il cui disco entra nelle classifiche americane, spiana la strada al successo oltreoceano, che non è sempre facile da ottenere, soprattutto quando si è europei. La mia vocazione definitiva nella vita è essere irritante, non qualcuno di realmente distruttivo, solo una persona che dà fastidio, che disorienta. Qualcuno che spezzi il lento processo quotidiano della vita e riesca a farlo in modo tanto convincente da lasciare che qualche vittima pensi che, forse, esiste qualcosa di più della semplice monotonia dell'esistenza. Il musicista è già per antonomasia, insomma, una persona fuori dagli schemi, un ribelle. Poi tutto questo, insomma, nel punk era estremamente esasperato. Tutti i grandi musicisti punk sono partiti con un moto di ribellione, anche se poi ognuno è andato per la sua strada. Elvis Costello, per esempio, ha una grande preparazione musicale, conosce i classici del rhythm and blues, e fin dal suo album di esordio, insomma, si capisce che, come molti altri, come i Police, come i Clash, come Joe Jackson, come i Ming DeVille o i Talking Heads, nel suo primo album si mescolano atmosfere diverse tra loro, il tutto arricchito da testi molto importanti che rivelano una capacità di Elvis Costello di descrivere sentimenti e anche di sensazioni astratte. E il secondo album, che si chiama This Year's Model, trainato dal singolo Pump It Up, arriva al quinto posto nella classifica inglese, ottiene anche un buon successo negli Stati Uniti, tant'è che Elvis Costello e The Attractions partono per una lunga tournée nordamericana. In un concerto a Los Angeles accade quello che spesso capita ai musicisti famosi, il 4 giugno del 78. Tra il pubblico c'è una modella, si chiama Baby Buell, è stata coniglietta di Playboy, ha fatto la cantante, è una groupie, è una di quelle ragazze che fanno di tutto per incontrare una rockstar per iniziare una relazione. È la mamma di Liv Tyler, nata da una relazione con Steve Tyler, il cantante degli Aerosmith. Peraltro rivelerà alla figlia di essere figlia appunto di Tyler, quando questa ha 18 anni. Per 18 anni è stata convinta di essere la figlia di Todd Rundgren. E tra i suoi amori questa santa donna vanta Rod Stewart, Mick Jagger, George Harrison, Jimmy Page. Così accade che Elvis Costello, che è sposato con una ragazza di nome Mary, prende una sbandata per Baby Buell, inizia a vivere un periodo molto complicato tra tradimenti nascosti che poi sfociano in una separazione dalla moglie, dalla quale aveva già anche un figlio. E la nuova relazione fa piombare Elvis Costello nell'occhio del ciclone dei giornali di gossip, e lui risolve i problemi come sempre buttandosi a capofitto nella musica, e gli incidenti di percorso capitano. Potrei darti tutto a parte il tempo, recita un verso di Party Girl, la canzone che lui dedica al suo nuovo amore, perché lui il tempo in realtà lo dedica alla musica. Terzo album in 3 anni. E ancora una volta è un successo, anzi l'album Armed Forces, da molti, me compreso, è giudicato, almeno per i primi 15-20 anni della carriera di Elvis Costello, forse il suo album più significativo. E l'album raggiunge la top 10 negli Stati Uniti, la seconda posizione in Inghilterra. Il fatto è che non sono mai stato un giovane incazzato, sono sempre stato un vecchio incazzato. Mi sono sempre sentito più vecchio e sono sempre sembrato più vecchio, quindi lo ero. Eh sì, atteggiamento punk, aggressività rock, ma una musica anche colta, fatta da uno con una faccia così strano. E intanto arrivano ancora concerti in Inghilterra, Europa e poi ancora gli Stati Uniti. E ancora Elvis Costello con il suo apparentemente brutto carattere. Ci sono cose che riescono ancora a farmi molto incazzare e ho paura che in questo caso le mie reazioni non seguano esattamente la logica, né la calma o l'intelligenza. E nel 79 Elvis Costello è ancora una volta negli Stati Uniti. Abbiamo parlato, insomma, di un carattere un po' spigoloso. Bene, una sera dopo un concerto nasce una discussione. Elvis Costello dirà una cosa di cui si pentirà per molto tempo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un musicista completo, un uomo che nella sua carriera ha ottenuto risultati grandiosi in molti generi diversi: il jazz, il rock, la musica classica, l'opera, vincendo sfide, ma partendo dal punk, dal 1977, con 3 album in 3 anni. Elvis Costello conquista le classifiche inglesi e americane. Il look è completamente diverso rispetto al punk e il carattere però è molto punk, perché è molto spigoloso. Avevamo accennato prima a un episodio che cambierà di molto la carriera, i rapporti con i media di Elvis Costello. Avviene in un hotel dell'Ohio, siamo nel marzo 1979. Elvis Costello sta effettuando una sosta di un lungo tour, è in un momento difficile, il suo matrimonio è andato a rotoli per colpa di una gruppi, si dice che fosse ubriaco, sta discutendo con una cantante, Bonnie Bramblett, che sostiene la superiorità dei musicisti americani su quelli inglesi. Insomma, a un certo punto la discussione, complice sicuramente quantomeno l'alcol, degenera e lui parla di James Brown e di Ray Charles apostrofandoli come idioti negri, ricevendo in cambio un pugno. Si sparge la notizia, Elvis Costello convoca immediatamente una conferenza stampa per scusarsi, l'America ovviamente si scandalizza, che voglio dire, proprio lei, insomma, che spesso non è esattamente benevola nei confronti delle minoranze razziali, però quando c'è da scandalizzarsi lo fanno subito. Viene cancellata la tournée e la programmazione delle canzoni di Elvis Costello. Insomma, il cantante deve subire un embargo che potrebbe danneggiarlo e molto. È stato necessario da parte mia fare un tentativo di far cessare questo litigio pronunciando le parole più offensive che conoscessi. In ogni caso, non ho mai avuto bisogno di scusarmi con i diretti interessati, perché le parole dette da un ubriaco sono diverse da quelle scritte sulla carta stampata. Così Costello torna a casa con il capo cosparso di cenere, torna dalla moglie e vive un periodo di allontanamento dalla vita pubblica. Deve scrivere l'album successivo, forse quasi per espiare l'offesa nata dal battibecco dell'anno precedente. Esce con il suo album forse più nero dal punto di vista delle sonorità, e in più inizia a collaborare con Rock Against Racism, appunto per in qualche modo fugare ogni dubbio sul suo razzismo, che era semplicemente il vaneggiamento di una persona che ha bevuto. L'America naturalmente non perdona immediatamente, le radio continuano a boicottare le canzoni di Costello. Nell'80 però la Columbia decide di fare uscire un'antologia anche in America, con risultati ottimi. E gli anni successivi sono un susseguirsi di canzoni, di album. Elvis Costello è veramente una produttività esagerata, è capace di scrivere due album all'anno, di fare concerti, e anche all'interno di uno stesso album è capace di cambiare rotta. Non c'è mai uno stile totalmente omogeneo. La sperimentazione di generi è sempre uno dei suoi obiettivi principali. I risultati di vendita non sono sempre esaltanti, ma Costello non è nato per essere uno che va primo in classifica, è nato per essere uno che dura 40 anni. Nell'83 comunque pubblica un album che si chiama Punch the Clock e in qualche modo ottiene anche quel successo commerciale al quale a volte si avvicina più di altre. Poi nel 1985 a Londra c'è un evento epocale, il Live Aid, organizzato da Bob Geldof, una maratona musicale senza precedenti, con tutti i musicisti inglesi e americani più importanti che si esibiscono in quello che diventa un concerto che, come dire, sdogana la musica come grande ambasciatore dei dolori nel mondo. A Wembley ci sono 80.000 persone, l'evento viene seguito anche in televisione da tutti, compresi noi che eravamo in Italia. Elvis Costello si presenta da solo sul palco imbracciando la sua chitarra e a sorpresa intona una canzone non sua, All You Need Is Love, il successo di John Lennon. Live Aid, Wembley and the world, welcome please Elvis Costello. L'accostamento Elvis Costello Beatles è stato fatto più di una volta, perché in qualche modo Elvis Costello è uno di quelli che ne hanno raccolto l'eredità, soprattutto dal punto di vista della creatività compositiva. E ogni volta che dopo la morte di John Lennon si è parlato di una reunion con i tre superstiti, il nome più accreditato per sostituire Lennon è sempre stato ovviamente Elvis Costello. E l'omaggio che Costello fa al Live Aid è uno dei momenti più toccanti del concerto. Oltretutto lui ha anche, come dire, l'eleganza di presentarsi per un evento benefico non promuovendo una sua canzone come hanno fatto altri, ma facendo un tributo ai Beatles e a John Lennon. E il preludio a una serie di collaborazioni che lui ha con altri componenti dei Beatles, soprattutto con Paul McCartney, che ha detto di Elvis Costello che è una delle poche persone con cui si è riuscito a scrivere oltre a John Lennon. I due scrivono assieme molte canzoni, tra cui Veronica nell'album Spike. Ma le collaborazioni per Elvis Costello sono all'ordine del giorno, perché lui ha una grande voglia di sperimentare nuovi generi musicali. Lo abbiamo visto esordire nel periodo punk e poi l'abbiamo visto assistere, accompagnare l'esplosione della new wave, e lui a suonare con un suo stile personale ma che teneva conto e precedeva un po' tutto. E ora siamo negli anni 90, dopo aver collaborato con McCartney si dedica alla musica classica con un progetto del 93, naturalmente con successo quantomeno di critica. Quando fai una cosa terribilmente diversa da quella per la quale sei noto, la cosa può sorprendere o addirittura far arrabbiare le persone. Ma la musica non si fa in base a chi potrebbe non ascoltarla. Bisogna seguire il cuore. Eh sì, c'è un album che si chiama The Juliet Letter che lui scrive e suona con un gruppo di AR che si chiama Broski Quartet. È un album veramente complesso ma incredibilmente interessante. E poi arriva un'altra collaborazione illustre, siamo nel 98 e lui è uno dei più grandi compositori del secolo, Burt Bacharach, e il disco è uno dei più belli di Elvis Costello. Il singolo God Give Me Strength vince il Grammy, diventa un successo mondiale, e lui come al solito trova un modo particolare per commentare la vittoria. Sono rimasto molto sorpreso perché ero sicuro che avrebbe vinto Céline Dion. Detesto la musica di Titanic. La trovo oppressiva, noiosa. Non mi emoziona affatto. Prima di vincere il Grammy ero convinto che Céline avrebbe avuto un influsso negativo sulla musica, che nessuno sarebbe stato in grado di scrivere una ballata romantica se non con i toni che lei ha lanciato. Chissà, forse c'è ancora speranza. Nel frattempo Elvis Costello si sposa la terza volta, e questa volta con una grande artista jazz, una grande cantante, Diana Krall, e ha anche da lei dei figli, ha due gemelli. Continua a suonare, io l'ho visto suonare un sacco di volte in concerto, e una volta mi ha anche tributato l'onore di uscire sul palco con in mano un mio album, Enrico VIII. Ci siamo fatti le foto di rito, insomma il mio inglese non mi ha consentito di dare vita a una grande amicizia, però se non altro ho conosciuto uno dei più grandi musicisti degli ultimi 30-40 anni. Nel 99 Elvis Costello, per i 25 anni del Saturday Night Live, con molta autoironia torna sulla scena del delitto, cioè quella nella quale lui aveva cambiato la canzone in corsa, e ripete la stessa scena di 22 anni prima, interrompendo l'esibizione dei Beastie Boys e interpretando insieme a loro Radio Radio un'altra volta. Più di 30 dischi pubblicati, collaborazioni con tantissimi grandi artisti, un repertorio sconfinato che lo ha spinto più di una volta a fare delle tournée, cosa che io gli ho copiato dichiarandolo, a fare delle tournée con una grande ruota sul palco, chiamando il pubblico a girare la ruota, e io una volta andai a girare la ruota per Elvis Costello, a girare la ruota e a cantare la canzone che veniva sorteggiata. Grande idea, pochi in Italia sanno che io l'ho fatta, ma perché l'ha inventata lui, e va detto. È uno che non risparmia dichiarazioni anche feroci, per esempio sui talent ha un parere non esattamente idilliaco, insomma. Tutti questi talent show potrebbero migliorare ancora molto. Basterebbe che si rifacessero alle tradizioni in uso al Colosseo al tempo dei Romani. Bisognerebbe che aprissero le gabbie dei leoni o inondassero tutto lo studio di acqua facendo entrare qualche coccodrillo. Sarebbe tutto ancora più spettacolare, credo. Un acidissimo humor inglese per un uomo che, passati i 60 anni, forse ha mitigato un po' il suo aspetto ribelle, ma certo, forse nella forma, non di sicuro nella sostanza. È sempre stato comunque uno controcorrente. Nell'album Wise Up Ghost ha raccontato la vita di suo padre e ha creato un altro disco dalle atmosfere jazz. Insomma, è un inguaribile curioso e irrequieto. E noi ogni giorno abbiamo scelto di raccontare vite straordinarie. Quella di Elvis Costello è sicuramente una vita straordinaria, di un grande musicista, un grande autore, un grande performer, che vi consiglio di ascoltare con attenzione chi non lo conosce, insomma, è meglio che approfondisca. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se conoscete una storia che pensate sia il caso che io racconti, e oppure seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24, oppure sul mio Facebook, sul mio Twitter, sui nostri social, insomma, se volete, come sapete, mi trovate. Ciao, a domani.